L'altra Europa. 7 minuti dopo le 12, buon sabato da Federico Taddia, benvenuti all'Altra Europa, l'appuntamento settimanale in collaborazione con il network Euronet Plus. Tante radio diverse, tante radio europee per raccontare un percorso comune, cerchiamo di raccontare l'Europa delle storie, l'Europa delle persone, delle possibilità e delle opportunità in questo appuntamento del sabato. Poi Radio 24 giorno per giorno segue quella che è l'attualità politica ed economica della nostra Europa. Euronetplus.eu, il portale di riferimento, radio24.it, il nostro sito da dove poter poi riascoltare la puntata e ritrovare tutti i contributi extra, e ancora i social, il mio account personale @FedericoTaddia, Facebook e Twitter, per trovare tutti i link relativi agli argomenti che andremo a toccare. Ogni settimana un viaggio, oggi partiamo dalla strettissima attualità. Partiamo da Brexit. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, one life, one life, one need, and I, one love, get to share it. Leaves you, darling, you don't care for it. Dentro o fuori dall'Europa, questo deciderà il 23 giugno il Regno Unito in questo referendum che ha assunto in questi giorni connotati tragici dopo il terribile omicidio della deputata Jo Cox, che appunto in un scenario politico molto acceso, molto caldo, molto indeciso si è inserita questa tragedia che ha un po' ribaltato tutte le priorità, ha ovviamente stravolto quelle che erano le agende politiche, perché è giusto così, perché questa tragedia umana è sicuramente più importante di quelle che sono le scelte politiche di questi giorni, che sta aprendo anche tantissime riflessioni per le derive che la campagna elettorale ha preso e ha esasperato. Per capire quello che è il polso della situazione abbiamo invitato Lazzaro Pietragnoli, l'abbiamo già conosciuto qui all'Altra Europa, è un membro laburista del Camden Council, del distretto della città di Londra, e in questi mesi si è battuto in prima persona nel fare campagna elettorale contro Brexit. Ciao Lazzaro, ben ritrovato all'Altra Europa. Ciao Federico, buongiorno a tutti. Insomma, è difficile capire il polso della situazione, è difficile anche chiedertelo perché per tutti gli inglesi e non solo, per tutte le persone coinvolte in prima persona in questa campagna elettorale, credo che siano state ore molto difficili. Sì, diciamo che è stato un episodio tragico e che ovviamente ha avuto delle conseguenze, sta avendo delle conseguenze sulla campagna elettorale, nel senso che tutti i partiti ieri e oggi hanno deciso di sospendere qualsiasi iniziativa di campagna elettorale. Domani si riprenderà, ma in maniera molto leggera, diciamo, quindi soltanto con volantinaggi e poche iniziative. Poi rimangono gli ultimi giorni in cui probabilmente la campagna riprenderà a pieno regime, spero con dei toni un po' meno accesi e un po' meno violenti di quelli che ci sono stati nelle settimane scorse. E Lazzaro, quando ci siamo sentiti un paio di mesi fa, insomma, sembrava una campagna molto nel segno del populismo, della pancia, delle dichiarazioni forti e forse poi pochi approfondimenti per raccontare le reali conseguenze di una eventuale uscita dall'Unione Europea. Così si è sviluppato poi fino ad oggi? Sì, purtroppo è stata una campagna elettorale in cui, a mio parere, l'Europa è rimasta assolutamente esclusa da qualsiasi discussione. Si sono fatte grossissime discussioni sull'immigrazione, grossissime discussioni sulle conseguenze economiche, devo dire, lo dico con un senso anche di autocritica, da entrambe le parti, nel senso che quando David Cameron dice se usciamo dall'Europa il rischio di avere la terza guerra mondiale è concreto, è un'esagerazione che non aiuta davvero a capire invece l'importanza che può avere l'Europa, ad esempio nella condivisione delle informazioni sulla sicurezza. Mi dicevano l'altro giorno che uno dei problemi che c'è stato con gli attacchi degli hooligans inglesi a Lille durante la partita con la Russia, sì, era che la polizia francese non aveva ricevuto dalla polizia inglese le informazioni sugli hooligans che si stavano muovendo. Questo è un problema che, se l'Europa funzionasse bene, se l'Europa funzionasse davvero, è forse un problema che si sarebbe potuto evitare. Certo. E invece stiamo facendo grandi discorsi su, appunto, questa paura di 70 milioni di turchi che dopo domani potrebbero entrare in Europa e venire tutti qui a Londra se si rimane nell'Unione Europea, che è quello che paventano i promotori dell'uscita, diciamo, senza invece parlare delle cose positive che si potrebbero e che si possono fare rimanendo in Europa. Certo. Lazzaro, abbiamo letto e stiamo leggendo tantissimi sondaggi. Sono tanti gli indecisi o comunque la popolazione è nettamente schierata o di qua o di là? Sono tanti gli indecisi ancora. E credo che la campagna elettorale che è stata fatta non abbia aiutato, diciamo. Diciamo che ci sono due diversi tipi di sondaggi. Ci sono i sondaggi che tengono conto gli indecisi, poi ci sono i sondaggi che invece fanno un conteggio solo di quelli che hanno già detto che andranno sicuramente a votare. Fra quelli che hanno detto che andranno sicuramente a votare, il Leave è in leggero, almeno diciamo prima che succedesse tutta questa vicenda, tragedia di Jo Cox, il Leave era in leggero vantaggio. Sì. Però appunto era un vantaggio molto falsato dal fatto che più o meno il 15-18% aveva ancora detto che non sapevano se sarebbero andati a votare. E pensi che la vicenda di Jo Cox sposterà voti? Io credo che la vicenda di Jo Cox abbia profondamente turbato l'opinione pubblica. L'abbia turbata per il modo in cui questa cosa è successa, perché comunque era una parlamentare che stava svolgendo il suo lavoro, stava incontrando i suoi elettori, stava mettendosi a disposizione della comunità, quindi non è morta in un incidente automobilistico, è morta attaccata da una persona che l'ha attaccata in quanto parlamentare. Poi sarà la polizia a decidere se questa persona aveva connessioni con gruppi, lo ha fatto per le sue posizioni sugli immigrati, per le sue posizioni sull'Europa o per altre ragioni, però l'ha attaccata in quanto parlamentare. E questo di sicuro ha colpito molti. Poi se avrà conseguenze, di sicuro avrà conseguenze secondo me sulla partecipazione al voto, nel senso che probabilmente molte persone di fronte a questa tragedia sentono, hanno capito, hanno la riflessione che si sta facendo in queste ore sull'importanza della politica, della rappresentanza, per cui probabilmente avrà un'influenza sulla partecipazione al voto. Non so se avrà un'influenza sull'esito del voto, cioè non credo che questa vicenda di Jo Cox mobilizzi di più le persone a favore di Remain o le persone a favore di Leave. Certo. Mobilizza di più un'opinione pubblica, ecco, questo sì, di sicuro. Mm-hmm. Insomma, sicuramente ha portato, come abbiamo detto, tante riflessioni, tanti ragionamenti e forse tante nuove consapevolezze. Grazie davvero a Lazzaro Pietragnoli. Lazzaro, grazie a voi. Lazzarop, questo è il tuo account su Twitter per chi volesse, sì, seguirti in questi giorni di campagna elettorale e poi di referendum. Buon lavoro Lazzaro, grazie. Grazie mille, buona giornata, arrivederci. Un euro post-it e ci fermiamo per il traffico, poi ancora qua con l'altra Europa. Euro post-it. Concorso l'innovazione che ti ha cambiato la vita. Attenzione, giovani appassionati di cinema. Nell'ambito della campagna hashtag EUFactor, Parlamento e Commissione Europea hanno lanciato il concorso L'innovazione che ti ha cambiato la vita. I partecipanti dovranno pensare a un'invenzione, un oggetto o una persona che abbiano rivoluzionato la loro esistenza e spiegare il perché attraverso una foto o un video. La competizione è dedicata ai giovani tra i 16 e i 19 anni. In palio la partecipazione ad un meet and greet con una delle star internazionali invitate al Giffoni Film Festival. Tutti i materiali dovranno essere pubblicati su Instagram con l'hashtag EUFactor entro il 1° luglio. I tre vincitori saranno valutati da una giuria e in base ai like che raccoglieranno e saranno annunciati l'8 luglio. Per tutte le informazioni visitate il sito della campagna eufactor.e. L'altra Europa. I'm from Budapest, from Hungary. I'm here in the audition in Vienna. Last year I was the member of the orchestra. It was a very nice experience for me. I learn a lot. I meet lots of nice people. Ogni volta è una Babele di lingue che diventa atto sinfonico, ogni volta un miracolo europeo che si rinnova. Con queste parole Paolo Rumiz, giornalista e scrittore, racconta il viaggio di European Spirit of Youth Orchestra. Che cos'è? Beh, che cos'è? Ce lo racconta proprio Paolo Rumiz, che è qua con noi. Ciao Paolo. Buongiorno a voi. Buongiorno, ben ritrovato. Un'esperienza importante, un'esperienza bella, un'esperienza di cui sei testimone. Che cos'è, diciamo, questa orchestra? Questa orchestra funziona già da parecchi anni. In realtà chiamarla orchestra non è esatto, perché è un'orchestra che si rinnova ogni anno attraverso la ricerca di giovani talenti fra i 13 e i 20 anni al massimo in giro per l'Europa, in particolare nell'Europa minore, la cosiddetta centro ed est Europa. Io lì ho intercettato nella mia vita quasi casualmente la leggenda di un maestro di musica che inseguiva questo sogno europeo, sì, e che ha voluto portarlo avanti anche poi quando, diciamo, la politica un po' si è dimenticata di lui. E pur di portare avanti questo sogno ha messo in vendita il proprio violino, quello con cui aveva cominciato la sua carriera musicale in Germania. E di fronte a questa notizia ho voluto conoscerlo e mi sono trovato di fronte a una persona magnifica e soprattutto poi mi sono trovato di fronte a un gruppo di un'ottantina di ragazzi con i quali ho collaborato, ai quali ho prestato la mia voce proprio per raccontare questo, che cos'è l'Europa, ed è stato un bagno di bellezza, di gioventù, di utopia, non lo so, cioè, vedere appunto come questi 80 ragazzi che non si erano mai visti prima si incontrano e sotto la bacchetta di un maestro che è anche un grande pedagogo riescono a trasformare Babele, per l'appunto, in una sinfonia, è una cosa che era veramente oltre tutte le esperienze che avevo avuto fino allora. E ho avuto anche dentro di me una specie di metamorfosi, quindi lavorando con loro, prestando la mia voce con i miei racconti, no, intervallati alle loro musiche, sono lentamente diventato anch'io uno strumento dell'orchestra, perché la parola si scopre sempre inadeguata rispetto alla bellezza delle note. Paolo, allora, ricordiamo che Igor Coretti Kuret è il maestro, dall'1 al 12 luglio al Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico ci sarà una sorta di prova intensiva dei ragazzi selezionati per presentare appunto queste musiche da eseguire poi nel tour Tamburi di Pace 2.0. Se non erro, in uno di queste serate ci sarà di nuovo la tua voce dove racconterai con la loro musica l'Europa vista dal treno. Sì, allora, intanto vorrei dire che non è un caso che questa cosa si faccia dentro gli spazi del Collegio del Mondo Unito, che in quella stagione, diciamo, è vuoto dai suoi allievi, perché diciamo l'ideale di questa orchestra è esattamente coincide con quello del Collegio del Mondo Unito, che mette insieme ragazzi di paesi che spesso sono nemici tra di loro, sì, li obbliga a convivere e fa scoprire a ciascuno di loro l'altro. Quindi questo grande viaggio. È bella questa immagine dell'obbligo alla convivenza, perché sì, non è che abbiamo molta scelta rispetto a quello che vediamo intorno, no? Che cosa possiamo fare se non cercare di mettere in questo mondo che sembra andare alla deriva un po' di note giuste che certo. vanno dall'indignazione ma anche all'incantamento. Perché ecco, io quest'anno dedicheremo questo concerto che l'altro anno abbiamo dedicato alla Prima Guerra Mondiale sì. e quindi alla necessità di non ripetere quell'errore, lo dedichiamo invece al racconto dell'Europa fisica, cioè come è fatta l'Europa, che meraviglia abbiamo tra le mani senza saperlo, e lo racconteremo dal finestrino di un treno attraverso delle parole che ho scritto più volte. Io sono un grande utente dei treni europei e quindi ho visto questo paese meraviglioso, questo insieme di nazioni, questo pullulare di diversità anche attraverso la natura, anche la bellezza delle sue montagne, delle sue coste frastagliate, questo promontorio dell'Asia, questo promontorio estremo che si protende verso l'Atlantico, è una delle cose più belle che esistono sulla Terra. E lo voglio raccontare, e la musica mi aiuterà a farlo. Paolo, in questo periodo stai presentando anche un libro dove ritorna di fatto l'Europa, un libro su l'Appia ritrovata in cammino da Roma a Brindisi. È davvero l'Appia la prima grande via europea? Perché? Beh, insomma, perché di fatto nel 312 avanti Cristo un certo Appio Claudio, chiamato il Cieco, decise di fare questa via per unire Roma a Capua, l'attuale Capua Vetere, via che poi sarebbe stata costruita oltre quel limite fino a Brindisi. Quindi quella via fu il baricentro del Mediterraneo. Segnò la centralità della penisola italiana in un mondo che oggi ci scappa di mano. E allora in qualche modo ripercorrere quella via, incitare gli italiani a riprendersela, perché vale mille volte di più di qualsiasi cammino di Santiago. Noi ce l'avevamo sotto gli occhi, non ce ne rendevamo conto. Riprenderci quella via significa riprenderci un ruolo all'interno di questo nostro mare, grande mare comune che è il Mediterraneo, e esercitarlo in pieno, quindi anche essere presenti in questi luoghi. La Grecia ci scappa di mano, persino la Grecia, ed è l'esatta continuazione di quella via, perché quella via porta in quella direzione, porta verso il Medio Oriente, porta verso tutti questi paesi che oggi mostrano, sono i focolai della massima instabilità alle porte della nostra Unione. Un'orchestra, il treno, la strada, il cammino. Sembra che al di là della politica, al di là dell'economia, per salvare questa Europa ci sia bisogno proprio di qualcosa di più fisico. Mi sembra che sia questo il tuo un messaggio forte. Io me ne sono accorto quando raccontavo le storie della Prima Guerra Mondiale. Noi siamo stufi di alzabandiera, siamo stufi di ricostruzioni storiche miopi, di analisi. Abbiamo troppi analisti in giro, abbiamo bisogno di una evocazione visionaria di quanto è accaduto allora per far parlare i giovani che combatterono quella guerra. Quindi abbiamo urgente bisogno di una narrazione nuova degli nostri eventi, della nostra geografia, della nostra storia, perché ripeto, nei grandi uffici dei nostri primi ministri di Bruxelles, delle grandi multinazionali, abbiamo troppi analisti e ci mancano i visionari, quelli che ci fanno capire che tutti gli eventi, tutti gli scricchioli che ci circondano, in realtà sono figli della stessa instabilità, cioè di un mondo che comincia a essere troppo pieno, che comincia a uscirci di controllo, il banditismo finanziario, l'intossicazione mediatica, questo girare di popolazioni che non sanno più dove battere la testa, ecco, tutto questo è figlio della stessa situazione, e questa stessa situazione nasce proprio dalla nostra incapacità di raccontare la nostra geografia e la nostra storia in modo più percettivo, più fisico, più evocativo. Grazie davvero a Paolo Rumiz e alle sue visioni. European Spirit of Youth Orchestra.it è il sito per conoscere questo bellissimo progetto. Grazie Paolo, buon sabato. Grazie a voi. Ciao. Buon proseguimento. Europost-it. Concorso Una vignetta per l'Europa. Il futuro dell'Europa si può riassumere in un'immagine? Anche quest'anno la rappresentanza in Italia della Commissione europea, in collaborazione con Internazionale e con la partecipazione di VoxEurope.eu, indice un concorso per premiare la migliore vignetta politica pubblicata sulla stampa italiana negli ultimi mesi. Le vignette migliori saranno valutate da una giuria popolare su Facebook e premiate a Ferrara in occasione del Festival di Internazionale 2016. Tutte le istruzioni per partecipare sono sul bando di concorso scaricabile dalla sezione notizie del sito della rappresentanza in Italia della Commissione, ec.europa.eu. Sono Giovanni Minoli e vi aspetto tutti i giorni dal lunedì a venerdì dalle 9 alle 10 e mezza con l'attualità su Mix 24 e Gialli della Storia, naturalmente su Radio 24. Ascoltaci anche in digital radio. L'altra Europa. Ancora buon sabato da Federico Taddia, chiocciola Federico Taddia, Twitter e Facebook, per trovare tutti i link relativi agli argomenti che stiamo toccando in questa puntata dell'Altra Europa. Echeggiano ancora le parole di Rumiz: un'Europa visionaria, un'Europa fisica, un'Europa che sappia anche fare proposte creative, proposte visionarie. Questa è la parola che ha usato e questo credo sia il termine da sottolineare. E la parola visionaria è quella che hanno fatto loro, anche due giovani studenti del liceo artistico Giacomo e Pio Manzù di Bergamo, che hanno firmato un progetto che non è una provocazione, è qualcosa che va al di là. È un progetto irrealizzabile che però racconterebbe un bel pezzo di questa Europa. Do il benvenuto a Cecilia Rizzi e a Simone Assi. Ciao Cecilia. Ciao. Ciao Simone. Ciao. Allora Cecilia, cosa avete creato tu e Simone, che insomma avete un po' concretizzato questa opera artistica che credo sia nata comunque in un confronto all'interno della vostra classe? Sì, abbiamo realizzato queste immagini in cui abbiamo trasferito il ponte realizzato da Christo del Lago di Iseo, e l'abbiamo trasferito nel canale di Sicilia come appunto un'idea utopica di un passaggio per i profughi che possano arrivare senza dover rischiare la morte. E ricordiamo che Christo inaugura proprio oggi questa installazione sul Lago di Iseo, che è questa passerella d'oro che collega l'isola alla terraferma. Simone, partendo da questa suggestione l'avete allargata, quindi vi siete immaginati un ponte d'oro in grado di collegare la Libia a Lampedusa? Sì, abbiamo deciso di immaginare idealmente questo ponte che unisse le coste della Sicilia e le coste della Libia, che sono più o meno 520 chilometri, sostituendo il nome The Floating Pierce, che è il titolo che ha dato Christo alla sua opera che è stata inaugurata ultimamente sul Lago di Iseo, trasformandolo in The Floating Bridge. Questo lavoro è stato realizzato per la giornata dell'arte, sì, che per il liceo artistico è un'occasione per aprirsi all'esterno, per far vedere le opere realizzate nel corso dell'anno, oppure realizzate anche, come in questo caso, apposta per quella giornata lì. Uh-huh. È un lavoro realizzato in Photoshop. E Cecilia, che insomma avete studiato la situazione dei migranti, avete fatto una approfondita ricerca iconografica per trovare le immagini giuste da inserire in questo ponte? Sì, abbiamo comunque ricercato le immagini sia del ponte di Cristo, utilizzando principalmente i suoi disegni, essendo che il ponte non era ancora stato realizzato, e poi immagini trovate su internet di profughi e di coste della Libia e, mm-hmm. e di Lampedusa. Simone, quali sono state le reazioni a questa vostra opera? Abbiamo trovato, cioè, per esempio, nella giornata dell'arte in cui è stato esposto il lavoro con un filmato, con della musica ad accompagnamento, sì. e abbiamo avuto delle belle reazioni, soprattutto da parte di alcuni professori e da parte di altri studenti che magari erano più vicini a questo, a questa opera, a questa idea. Mm-hmm. E, no, comunque abbiamo avuto delle buone reazioni anche da parte di alcuni giornali su cui siamo finiti. Mm-hmm. E anche il professore spero che sia stato soddisfatto del lavoro. Che ricordiamo, insomma, che ci sono anche i professori, ovviamente, che sono. Sì, ci ha aiutato il docente di storia dell'arte e di media tecnologici del pomeriggio. Mm-hmm. Liceo Artistico Bergamo.gov.it, questo è il sito da dove poter vedere anche qualche immagine di The Floating Bridge, questo bel progetto firmato da Cecilia Rizzi e Simone Assi. Ciao Cecilia, ciao Simone, complimenti. Grazie. Ciao, grazie. Buon sabato. Europost-it. Insegnare l'Europa. Alla Sapienza, il master per docenti. A tutti gli insegnanti e dirigenti scolastici interessati ad approfondire le materie europee. Unitelma e l'Università La Sapienza di Roma organizzano Insegnare l'Europa, il master di 12 mesi dedicato ai docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado. I partecipanti seguiranno un programma didattico basato su video lezioni online e lezioni in aula. Le materie affrontate dal corso riguardano elementi di diritto dell'Unione Europea, il processo di integrazione europea, gli ambiti di intervento, le politiche e le competenze dell'Unione Europea, la dimensione europea dell'educazione, la politica sociale e ambientale e le politiche della salute e dell'alimentazione. Tutte le informazioni nella sezione master del sito unitelmasapienza.it. Ha preso il via il 15 giugno da Bergamo il No Cash Trip Europe, un viaggio di tre italiani in auto senza denaro contante. Il perché, chi sono e qual è l'obiettivo di questo viaggio lo chiediamo a Geronimo Emili, presidente di Cashless Way e ideatore appunto del format, oltre ad essere uno dei membri dell'equipaggio. Ciao Geronimo, benvenuto all'Altra Europa. Ciao, buongiorno a tutti. È un'altra Europa senza contanti, quella che vi immaginate? Beh, è tutto un altro vivere, perché nel momento in cui abbiamo lasciato l'Italia già abbiamo cominciato a percepire un utilizzo completamente differente rispetto a come siamo abituati noi. Dove... Troviamo a Francoforte, sì. Troviamo a Francoforte proprio davanti alla BCE, tra l'altro, e abbiamo appena lasciato... un personaggio simpaticissimo che abbiamo conosciuto qui a Copenaghen, che è il general manager di una grossa società di un grosso circuito di pagamenti, che è un polacco, e la Polonia tra l'altro si è cresciuta tantissimo negli ultimi anni, quindi evidentemente hanno mandato questo polacco a far crescere i pagamenti elettronici in Germania, perché poi i tedeschi uno pensa che siano, come dire, molto evoluti, sì. Lo sono per tanti aspetti, ma sui pagamenti elettronici sono molto simili a noi, non amano particolarmente la carta di pagamento, anzi sono attaccati al contante, come noi italiani. Geronimo, ma state cercando situazioni virtuose o state cercando di dimostrare che si può viaggiare l'Europa senza contante in tasca? Allora, si può, non è una cosa difficile, poi tra l'altro voglio dire, lo facciamo senza rendercene conto tutti noi di utilizzare le carte di pagamento. Girare l'Europa senza contanti si può benissimo. Stiamo cercando, diciamo, tre aspetti in particolare. Il primo, capire quanto sono effettivamente, gli inglesi dicono, cashless, no? Quindi senza cash, le città che andiamo a toccare. Sì. L'altra cosa è scovare le società tecnologiche legate ai pagamenti, che si chiamano appunto, vengono definite fintech, che ci sono tantissime in giro per l'Europa. In Germania ce ne sono diverse, poi andremo a Copenaghen, andremo in Inghilterra, in Francia, Olanda, insomma ci sono tanti posti dove andremo. E il terzo aspetto, che è quello più, come dire, difficile da andare a raccontare, ma che abbiamo già raccontato una volta, è l'inclusione finanziaria, no? Per esempio a Trento, che prima di uscire dall'Italia, siamo andati a trovare a visitare un centro di accoglienza per rifugiati, per migranti, che è l'unico centro in Italia che fornisce la diaria a questi migranti attraverso una carta di pagamento, eliminando completamente il cash. Loro l'hanno fatto perché c'è tutto un giro di, come dire, mancanza di controllo e anche un po' di criminalità intorno a questo denaro. In questo modo hanno la totale visibilità, trasparenza, e il migrante, una volta che esce da quello status di rifugiato, continua a mantenere questa carta di pagamento, quindi è un primo, come dire, è un primo successo di inclusione finanziaria. E no cash per la sicurezza, per la trasparenza, per la comodità, per ridurre i costi, sono un po' queste le motivazioni principali. Chi osteggia questa rivoluzione verso il non contante? L'osteggia l'irrazionalità e la patologia. Cioè, se tu rispondi a questa domanda, qual è il motivo razionale e legale per cui tu non vuoi utilizzare la carta di pagamento? Non ce ne sono. C'è l'irrazionalità, non mi piace, non mi piace avere il contante in tasca, che non è una buona ragione, oppure hai delle finalità, come dire, illegali. Vuoi evadere le tasse, vuoi riciclare denaro sporco, vuoi esportarlo illegalmente. Allora in quel caso non hai molta scelta, devi per forza utilizzare il cash. Quello che noi spieghiamo alle persone, soprattutto quando ci dicono il denaro elettronico costa, non, il pubblico non ha idea di quanto costi in realtà il denaro contante, la stampa, la diffusione, lo stoccaggio, la messa in sicurezza, senza poi contare i costi, come dire, sociali, no? Le rapine, le frodi, eccetera, eccetera. È un numero che tra l'altro hanno calcolato: gli italiani spendono circa 190-200 euro a testa l'anno per gestire questo enorme costo, quindi in realtà il denaro contante costa. Cashlessway.com, questo è il sito ufficiale. 3 persone, 8 stati in 13 giorni, circa 4.000 chilometri. Geronimo, se ti in 3, ci assicuri che in questo momento nelle vostre tasche non c'è neanche una monetina? Ho mezzo franco che mi hanno dato in un autogrill, ma siccome è svizzero lo utilizzerò un altro giorno, non so quanto. Buon viaggio, grazie. Grazie, ciao a tutti. Ciao. Un Europostit, il traffico, poi ancora qua con l'altra Europa. Europostit. Hashtag EUFactor lancia il test Che genio sei? Guida spaziale, poliziotto meteorologico o medico chirurgo di fama internazionale? Quale sarà la tua professione geniale? Hashtag EUFactor, il progetto della Commissione europea e del Parlamento europeo, nato per avvicinare i giovani allo studio della scienza, della tecnologia e dell'informatica, lancia il divertente test online Che genio sei? 5 domande per capire quale tipo di genio è presente in ognuno di noi attraverso un'app su Facebook. Futuro esploratore spaziale, medico ricercatore, ingegnere robotico o genio dell'informatica? Qual è il tuo futuro? Scoprilo cercando Che genio sei sul sito eufactor.it. L'altra Europa. Martedì sera dalle 21 alle 24 torna la notte prima degli esami, 3 ore in diretta con me, Chiara Dello Iacovo, la cantante. Insieme vivremo questa notte appunto, insieme a tanti personaggi famosi che porteranno il loro ricordo, tanti ascoltatori, tanti maturandi che condivideranno con noi l'ansia, la paura, la speranza, insomma anche la gioia finalmente di togliersi di mezzo questo esame. Beh, e quindi anche la puntata di oggi dell'Altra Europa la vogliamo chiudere con chi sta vivendo la maturità in chiave europea, perché l'Europa è lì che l'aspetta. Do il benvenuto ad Alice Antonelli, studentessa di quinta del liceo scientifico Enrico Fermi di Cecina, siamo in provincia di Livorno, che oltre alla maturità sta preparando questa partecipazione alla finalissima del concorso promosso da NASA e Unione Europea, con si chiama Odysseus, insomma credo sia l'unica italiana partecipante ad essere arrivata in finale con un progetto assolutamente innovativo. Ciao Alice. Ciao Francesco, buongiorno a tutti. Federico, ma va Federico, bene anche Francesco, scusa. Si piace. Sì. Allora, stai pensando più alla maturità o più a questa finalissima che ti aspetta? Ma sono delle cose diverse, però senza dubbio se devo mettere da parte la carica per entrambi. Sì, eh? E prima c'è la maturità da poter affrontare, poi penserò alla finalissima del progetto che appunto si terrà in Belgio. Mm-hmm. E sto già lavorando da gennaio al progetto per il concorso di Odysseus, e per ora ho vinto la fase nazionale e ho vinto anche la fase semi-europea che si è tenuta il primi di maggio in Austria, e adesso dovrò andare in Belgio appunto agli inizi di luglio, subito dopo gli orali della maturità, e per cercare di vincere insomma questo concorso a livello mondiale. Cosa hai ideato? Ho ideato un progetto che appunto, come richiedeva il bando del concorso, cioè, è basato sull'osservazione dell'atmosfera e il controllo delle condizioni meteorologiche relative all'inquinamento, controllando appunto dall'alto l'atmosfera terrestre. E il progetto consiste in un pallone sonda, ossia un pallone in latte che viene riempito con elio, che acquisisce quota, e sotto a questo pallone è collegato un manuale che è un aeromodello, e sotto l'aeromodello si trova una piattaforma elettronica. Il sistema sale e acquisisce una quota, arriva fino a 30.000 metri di quota, quindi raggiunge la stratosfera, e poi appunto il pallone scoppia, e ho ideato un sistema di ritorno grazie appunto a questo aeromodello per poter riportare tutti i dati alla base affinché questi poi dopo siano analizzati. E non c'è alcun tipo, non c'è alcuna dispersione di materiale, né alcuna perdita di tempo oppure di denaro. Appunto gli scopi di questo progetto sono quello di analizzare, cioè di raccogliere dati relativi alle condizioni meteo, relativi all'inquinamento, e poi un'altra mia ambizione sarebbe quella di poter diffondere il progetto in tutte le scuole del mondo. Infatti ha uno scopo educativo. E proprio così come diciamo quello che è lo scopo del concorso europeo finanziato dall'ESA, che è appunto di avvicinare i giovani allo spazio, rendendo loro intraprendenti, facendo loro appunto creare progetti relativi a questo, relativi allo spazio. Così io voglio con il mio progetto, con questo pallone sonda, diventare un po' l'ambasciatrice dello spazio e diffonderlo in tutte le scuole per poter avvicinare appunto i giovani all'osservazione dello spazio, al campo dell'ingegneria aerospaziale. E infatti appunto essendo molto economico, infatti con solo 150 euro possiamo realizzarlo. Così facendo ognuno potrebbe diventare attore di questo progetto e poter raccogliere dati fino alla stratosfera, e poi dopo e raccogliere anche immagini. Infatti sopra il manuale verrà collocato anche una telecamera, e quindi può vedere la terra sferica. È molto facile appassionarsi vedendo queste immagini suggestive. Assolutamente. Alice, ma tutto ciò, tutte queste competenze le hai acquisite a scuola o hai avuto anche uno studio, un approfondimento parallelo? Principalmente, naturalmente a scuola faccio lo scientifico tradizionale, certo. Quindi ho avuto le basi di matematica, di fisica, però diciamo questo campo ho approfondito per conto mio, diciamo. Infatti il progetto è la sintesi di quelle che sono le mie passioni, un po' sono un aeromodellista, quindi un po' appunto l'aeromodellismo, il fatto della costruzione del manuale, un po' qualche base di elettronica. E quando ho letto il bando su internet del concorso ho messo tutto quanto insieme. Certo, era un bando disegnato su di te. Complimenti Alice, in bocca al lupo per la maturità, in bocca al lupo per le finali, ma sicuramente ci riascolteremo, ci ritroveremo quell'altra Europa per raccontare com'è andata a finire. Ciao, grazie. Grazie a voi. Questo grazie anche a tutta la squadra dell'altra Europa, Valeria Bernardi oggi in assistenza, Claudia Schiattone dietro di lei, Miriam Righini, e Miriam Lucchetti e Silvia Righini che con me hanno scritto la puntata e ovviamente ho invertito i cognomi come da tradizione. L'appuntamento a martedì sera con la notte prima degli esami dalle 21 alle 24. Vi aspetto. Ciao.